Letture di Radio 24. Negli anni 60, quando la popolazione mondiale aveva raggiunto i 3 miliardi, si cominciava a parlare dei possibili rischi di una bomba demografica e per il 2000 si prevedevano carestie ed esaurimento delle risorse. Il 2000 è passato da un pezzo. La popolazione ha superato i 7 miliardi. Eppure il benessere è più diffuso che in passato e alla fine stiamo meglio di quanto pensiamo. In particolare ci sono 3 aspetti che possiamo considerare positivi. Primo, tasso di mortalità infantile in calo. Dati del 2000, ebbene, dei 187 paesi per i quali disponiamo di dati, soltanto 19 avevano un tasso di mortalità neonatale superiore al 10%, e il paese con la performance peggiore del mondo, la Sierra Leone, presentava un tasso di mortalità neonatale più o meno uguale alla media europea di un centinaio di anni prima. Sempre nel 2000, infine, 46 paesi presentavano tassi di mortalità neonatale inferiori all'1%. Alcuni paesi hanno raggiunto risultati davvero spettacolari. Nel Cile del XX secolo, per esempio, la mortalità è scesa dal 25% all'1% tra i neonati, mentre in Giappone è passata dal 25% allo 0,3% negli stessi 100 anni. Seconda buona notizia. Crescita dell'istruzione. A livello globale, durante gli 80 anni compresi tra il 1870 e il 1950, la percentuale mondiale della popolazione in grado di leggere e scrivere è cresciuta da un quarto a metà e dal 1950 al 2000 è arrivata a 4/5. Il progresso è stato particolarmente incoraggiante per le donne. Fra il 1970 e il 2000, il rapporto medio globale tra l'alfabetizzazione femminile e quella maschile si è spostato dal 59 all'80%. Tanto per dire, i tassi di alfabetizzazione nella regione subsahariana sono passati infatti dal 28% al 61% soltanto fra il 1970 e la fine del secolo. Uno dei fattori principali alla base della crescita del livello di alfabetizzazione globale è da ricercare in una più ampia diffusione dell'accesso all'istruzione. Terza buona notizia: i diritti civili. Negli ultimi 200 anni siamo passati da un mondo in cui il 38% della popolazione si trovava in condizioni di schiavitù, negli Stati Uniti meridionali fino al 1865, a uno dove tale condizione è considerata ovunque fuori legge. Negli ultimi 3 decenni la schiavitù è stata bandita anche da paesi come lo Yemen, la Mauritania, l'Arabia Saudita e il Qatar. Certo, la vita è lontana dall'essere perfetta e tante storie recenti mostrano un rallentamento di alcune dinamiche, ma non c'è dubbio che rispetto a qualche anno fa si vive meglio. Siamo 7 miliardi e si vive meglio. Ma ci vorranno nuove fonti energetiche, più efficienza e minor impronta ecologica. Se non studiamo, verifichiamo, integriamo le conoscenze, se non cambiamo la percezione della realtà, come possiamo poi cambiare il mondo? E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dall'articolo di Antonio Pascale «Si stava meglio quando si stava peggio», dal numero di gennaio del magazine Il. Letture di Radio 24. Helen Brown è una scrittrice neozelandese che 3 anni fa ha ottenuto un grande successo con il suo primo libro intitolato Clio, nel quale raccontava come l'arrivo inaspettato di una gattina fosse riuscito a farle superare la tragedia che aveva colpito la sua famiglia. Alla morte di Clio, Helen aveva giurato a se stessa che non avrebbe mai voluto altri gatti. Non giurare di non volere un altro gatto era stata l'immediata replica di sua madre. E quando la vita la porta di nuovo a dover affrontare momenti difficili, arriva Joe, un piccolo siamese che combina disastri, ma che ancora una volta riesce a riportare la serenità nella sua famiglia. All'improvviso, Joe saltò sul tavolo facendo schizzare per aria forchette e cucchiai. Il portacandela cadde a terra, dove finì in mille pezzi. L'unica cosa che impedì alla tovaglia di prendere fuoco fu l'acqua del vaso, che si era rovesciato di lato, sparpagliando ovunque il suo contenuto floreale. Se fossi stata la Ellen di sempre, ci avrei riso su. «Qualcuno può farlo calmare?» Dopo pochi minuti, Joe riaprì gli occhi di scatto, balzò a terra e si diresse saltellando in corridoio, prendendo di mira il mio studio, dove udimmo l'inquietante melodia delle sue zampe sulla tastiera del mio computer. «Fermalo!» gridai a Catherine, che nel frattempo era scesa, richiamata da tutto quel trambusto. Mentre Catherine correva verso il mio studio, Joe ricomparve con aria pensierosa. «È tutto a posto!» gridò Catherine. «Ha bloccato i tasti, ma posso sistemarli! Oh, e ha rovesciato il barattolo degli elastici, ma non è niente!» Joe trotterellò verso di me, emise un gemito afflitto e vomitò sul tappeto una piccola matassa di elastici. «Oh, signore!» «Ma ecco lo scarico del water!» Per lui niente era più eccitante che cercare di colpire quel torrente d'acqua con la zampa e si lanciò verso il bagno a velocità supersonica. Osservai la sua coda che spariva e feci l'inventario dei danni. 2 flutte e un bicchiere per il vino rosso ridotti in frantumi. Un portacandele messicano decapitato. La moquetta brandelli sulle scale e una macchia umida sul tappeto dove aveva vomitato gli elastici. Un berretto di lana nuovo di zecca, mordicchiato e bucherellato. La tastiera del computer bloccata. Il sogno di avere un gattino si era trasformato in un incubo. Eravamo stati investiti da un tornado felino che lasciava dietro di sé solo distruzione. Se in qualche modo era stata Cleo a mandarci quella creatura, si trattava di un trucchetto crudele per ricordarci che animale domestico perfetto, che autentica guardiana fosse stata lei. Singhiozzai fra le lacrime. Quel gattino doveva tornare da dove era venuto. Scesi a fatica dal divano e mi stavo avviando verso l'ingresso alla ricerca del trasportino quando sentii girare la chiave nella porta. Philip apparve con lo sguardo affamato di un uomo che ha sentito profumo di pollo in umido al termine di un'estenuante giornata di lavoro. «E lui chi sarebbe?» chiese, quando Joe gli trotterellò davanti per salutarlo. «Un mio grossissimo errore», risposi. «Ti spiacerebbe riportarlo al negozio domani mattina?» Joe si sedette composto davanti a Philip. Lo studiò attentamente, poi allungò una zampa per dargli un colpetto sul ginocchio. «Cos'ha che non va?» chiese Philip, mentre Joe piegava la testa di lato ed emetteva un miagolio educato. «È iperattivo, nevrotico, distruttivo, disfunzionale, vanitoso!» «Vanitoso? Come uno di quei modelli. Sa di essere bello e ne approfitta per manipolare la gente. Guardalo!» Joe fissava con sguardo candido un ragno sul soffitto. Aveva un manto perfetto e occhi meravigliosi che scintillavano come da dietro la maschera di un ladro. Il mattino seguente, prima dell'alba, fummo svegliati da una serie di colpi regolari, seguiti da altrettanti scampanellii, l'accompagnamento perfetto per una danza amoresca. Philip scese dal letto. Non appena abbassò la maniglia, la porta si spalancò e Joe caracollò dentro, la canna da pesca stretta saldamente fra i denti. Si catapultò sul piumone, mi piazzò la canna in mano e arretrò pieno di aspettativa. Philip sorrise e scomparve in cucina per preparare tè e pane tostato. Rannicchiato fra le coperte, Joe ronzava come un motorino, impaziente attesa che il gioco cominciasse. Non ero dell'umore giusto per giocare, soprattutto visto che se ne sarebbe tornato al negozio di animali nel giro di 1 ora o 2. Joe mi fissò con fare interrogativo, poi si fece avanti e mi sfiorò la mano con una zampina morbida, gli artigli diplomaticamente rinfoderati. Mi stava rivolgendo un invito, nel modo più educato possibile. Afferrare la canna e farla dondolare in aria avrebbe richiesto uno sforzo minimo da parte mia. Di sicuro non ero così crudele da deluderlo. Con un sospiro cominciai a far dondolare la lenza con la mano sinistra e il fastidioso uccellino iniziò a muoversi. Joe lo osservò incantato per qualche secondo prima di mettersi nella corretta posizione per saltare. Con il corpicino fremente anticipava la direzione della sua vittima. Lo sguardo fisso sull'uccellino, Joe si concentrò intensamente. come se si immaginasse nel corpo della sua preda e fosse un tutt'uno con ogni suo movimento. Poi, con la grazia di un Rudolf Nureyev all'apice della carriera, si lanciò in aria e catturò uccellino e campanello fra i denti e le zampe anteriori. Una volta cominciato fu impossibile fermarsi. Ogni balzo era un balletto. Non c'era sfida che Joe disdegnasse. Saltava sempre più in alto e a volte sembrava fermarsi a mezz'aria, come in posa per agguantare l'uccellino. Un modello color cappuccino con scintillanti occhi blu. Era bellissimo. E carico di vitalità. Mi stava riconquistando. «Allora torniamo ancora al negozio di animali?» rise Philip, quando entrò carico di tazze e pane abbrustolito. Joe mi rivolse uno sguardo che avrebbe potuto sciogliere un intero ghiacciaio. Facendo le fusa, caracollò sulle coperte. Sembrava sapere con esattezza qual era il suo posto, acciambellato sul mio collo, con la testa sul cuscino. Poi emise un sospiro, come un viaggiatore che dopo un viaggio epico giunge finalmente a casa. Chi ero io per discutere? Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro Joe di Alan Brown. PM Edizioni, 418 pagine, €18,50. Nella città immaginaria di Alverigea, al centro di un romanzo scritto da Ivan Clarke e Stu Duval, cani e gatti vivono in zone separate. Nella zona dove vivono i cani, una sera d'inverno un cucciolo di segugio viene abbandonato sui gradini dell'orfanotrofio. Bella Bostock, la corpulenta governante dell'orfanotrofio, spalancò la porta e guardò fuori nella notte. Nessuno. Stava per tornare dentro quando scorse il piccolo fagotto sul gradino. «Santi musi, e questo cos'è?» Raccolse il pacchetto rettangolare legato con una corda. «Sembra una scatola da scarpe!» Se era stato uno dei suoi segugi a ideare quello scherzo, avrebbe avuto una bella lezione. Ma quando cominciò a slegare la corda, sentì qualcosa muoversi all'interno. E una volta sollevato il coperchio, i grandi occhi di Bella si spalancarono all'inverosimile nel vedere, rintanato in una vecchia pantofola, un minuscolo cucciolo di segugio fissare il suo viso sbigottito, battendo le palpebre sotto la luce gialla del portico. «Bontà divina! Un povero piccolo segugio!» gridò, stringendoselo al petto generoso. Alzò gli occhi alle stelle come per ringraziare il cielo. «Ma come sei arrivato fin qui?» Stava per rientrare quando vide Rolf Flanagan nella sua vestaglia lacera scendere le scale mezzo addormentato, strofinandosi gli occhi. L'anziano direttore la osservò come se avesse tra le zampe un lavoro a maglia capovolto. «È stato un angelo custode», strillò Bella. «Neanche fosse la cosa più ovvia del mondo. È sceso giù dalle nuvole con questa creaturina». Rolf Flanagan stava per suggerire che una scatola da scarpe e una vecchia pantofola erano un mezzo di trasporto insolito per un angelo custode, ma preferì evitare. Come molti altri, Bella credeva nell'esistenza di un regno spirituale e solo i più coraggiosi o i più sconsiderati avrebbero osato disilluderla. Soprattutto in quei tempi duri. Rolf cercò di farsi venire in mente qualcos'altro da dire, ma prima che ci riuscisse, la governante era già rientrata in gran fretta, stringendo tra le zampe il trovatello e lasciando il direttore a grattarsi il muso. Il cucciolo nella scatola non aveva segni di identificazione, a parte un conciso biglietto legato con uno spago attorno al collo. «Arthur Snout. Nessun parente prossimo». «Povero piccolo», disse Bella con dolcezza, «tutto solo in questo vecchio mondo sconfinato. Beh, qualcuno si è preso cura di te come si deve, dandoti un nome e tutto». A quel punto Rolf Flanagan decise che tanto valeva bersi un'ultima birra prima di tornare a letto. Si infilò un cardigan marrone sfilacciato e si sedette al tavolo della cucina. Bella buttò qualche ceppo sulle braci rimaste nella stufa di ghisa e ben presto il fuoco divampò, riversando nella stanza un caldo bagliore giallognolo. Gli scaffali della cucina scricchiolavano sotto il peso dei barattoli di marmellata e delle bottiglie di conserva. Alle travi del soffitto erano appesi pentole e tegami, tutti lucidissimi, insieme a una schiera di strofinacci a quadri che si asciugavano nell'aria calda. Da sopra il bordo del bicchiere, il vecchio direttore guardava Bella occuparsi del misterioso arrivato. Al tocco delle sue zampe, il cucciolo mugolò allegramente. Aveva lunghe orecchie morbide e occhi color nocciola, mentre il musino era nero come la veste di un parroco. Però era stranamente basso, anche per un cucciolo. «Che razza di segugio è?» mormorò Rolf. «Sembra tutto muso e orecchie». «Beh, certe volte il vino buono sta nella botte piccola». Bella fece un sorriso d'intesa. «Comunque, c'è sempre posto per uno in più». Il direttore scosse la testa poco convinto. L'orfanotrofio era già pieno fino al soffitto e il consiglio di amministrazione gli aveva proibito di accogliere altri randagi. «Responsabilità fiscale», avevano cantilenato. Vuotò il bicchiere, sbadigliò e si diresse verso le scale per tornare in camera. Sulla porta della cucina si fermò e guardò Bella pettinare con tenerezza le lunghe orecchie rossicce del cucciolo. Arthur Snout gli rivolse uno sguardo malinconico, quasi i suoi intensi occhi castani cercassero accettazione nel suo muso brizzolato. Un sorrisetto indugiava sulla bocca del trovatello e tra le labbra fece capolino una festosa linguetta rosa. Bella smise di pettinarlo e si soffermò a guardarlo. Un'espressione dubbiosa le attraversò il viso. «Hai qualcosa di familiare», mormorò. Poi la voce si dissolse come il fumo di un bollitore. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Ivan Clark e Stu Duval, La leggenda di cane solitario, Mondadori, 276 pagine, 20 euro.